Il Signore mi disse: anche se si presentassero Mosè e Samuele al mio cospetto, non avrei cuore per questo popolo. Caccialo dalla mia presenza, che se ne vada. Se poi ti diranno dove andremo, allora dirai loro: così dice il Signore, chi è per la morte, alla morte, chi è per la spada, alla spada, chi è per la fame, alla fame, e chi è per la schiavitù, alla schiavitù. Io li punirò con 4 tipi di mali, oracolo del Signore: con la spada per massacrare, con i cani per sbranare, con i volatili del cielo e con le bestie del paese per divorare e distruggere. Io li renderò uno spavento per tutti i regni del paese, a causa di Manasse, figlio di Ezechia, re di Giuda, per quanto ha fatto in Gerusalemme. Chi dunque ti compassionerà, o Gerusalemme? Chi farà cordoglio per te? E chi si volterà per domandare della tua salute? Tu mi hai respinto, oracolo del Signore, mi hai voltato le spalle. Così ho steso la mia mano contro di te e t'ho distrutta. Sono stanco di aver compassione. Perciò li ho ventilati con il ventilabro alle porte del paese. Ho privato di figli. Ho fatto perire il mio popolo, perché dalla loro condotta non si sono ritirati. Sono aumentate le loro vedove più che la sabbia del mare. Faccio venire contro di loro e contro la madre del guerriero un devastatore a mezzogiorno. Faccio cadere su di loro all'improvviso terrore e spavento. Langue la madre di 7 figli, è sola la sua anima. Cala il suo sole quando ancora è giorno. È vergognosa e confusa, mentre il suo residuo lo consegnerò alla spada di fronte ai suoi nemici. Oracolo del Signore. Ahimè, madre mia, che mi hai generato, quale uomo di litigio e discordia per tutto il paese. Non do credito né danno credito a me. Tutti mi maledicono, dice il Signore. Non ti ho forse assistito per il meglio? Non ho forse imposto su di te, nel tempo della malvagità e dell'angustia, l'inimicizia? Spezzerà forse il ferro del nord e il rame? La tua ricchezza e i tuoi tesori lascerò depredare senza compenso per tutti i tuoi peccati e in tutti i tuoi confini. Io ti farò servire il tuo nemico in un paese che non conosci, perché un fuoco si è acceso nella mia ira, contro di voi si accenderà. Tu lo sai, Signore. Ricordati di me e visitami e vendicami contro i miei persecutori. Nella lentezza della tua ira non lasciarmi perire. Sappi che ho portato per causa tua l'obbrobrio. Furon trovate le tue parole e le divorai. Una gioia fu per me la tua parola ed una letizia per il mio cuore, perché il tuo nome veniva invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. non mi son seduto per divertirmi nell'assemblea dei beffardi. A causa della tua mano, solitario mi son seduto, perché disdegno mi avevi riempito. Perché deve durare il mio dolore per sempre, e la ferita mia è incurabile, senza guarigione? Vorrai essere per me come un bugiardo, come acqua inquinata. Per questo, dice il Signore, se vuoi ritornare, ti farò ritornare. Al mio cospetto resterai. E se tu produrrai cose meritevoli, prive di viltà, quale bocca mia tu sarai? Ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. Io ti renderò di fronte a questo popolo qual muro di bronzo fortificato. Combatteranno contro di te, ma contro di te non prevarranno, perché io sono con te per salvarti e liberarti. Oracolo del Signore. Io ti libererò da mano malvagia e ti strapperò dal pugno dei violenti.